1, 2, 3. Adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino, l'Italia si desta. Siamo qui, sono le 7:20 minuti, cari ascoltatori, quando la 76esima settimana decisiva per la riforma elettorale e l'abolizione delle province ormai è entrata nel vivo. Noi siamo pronti a leggere i giornali, ricordandovi che oggi parleremo con il senatore Nicola Morra del Movimento 5 Stelle all'indomani della kermesse del Circo Massimo. Ma torneremo anche sulla vicenda, visto che qualcuno in segreteria telefonica diceva: ma come avete dedicato 40 secondi alla vicenda successa a Napoli di quel ragazzino che è stato brutalizzato da dei 24enni? Torneremo su questa vicenda per raccontare, insomma, il contesto, per raccontare anche come sia possibile che questo ragazzo di 24 anni, per il quale è stato convalidato il fermo, sia stato difeso dalla sua famiglia. È tutto un gioco, è stato un gioco sfuggito, quello del ragazzino che è stato mandato in fin di vita per il compressore sparato lì nel di dietro. Avremo ospite l'avvocato della persona accusata di tutto ciò, insieme ad altre persone, e poi avremo altri ospiti dalle 8:15. Intanto andiamo a leggere i giornali. In questo lunedì 13 ottobre i titoli: il Sole 24 Ore apre così, pensioni, lavoro, risparmi, la lunga rincorsa dei giovani. Ma c'è anche in prima pagina del Sole 24 Ore un intervento del premier cinese Li Keqiang, che domani sarà in Italia per visita di Stato. Il titolo è l'albero sempreverde dell'amicizia tra Cina e Italia. Il Corriere della Sera apre sulla legge di stabilità: meno incentivi, tagli ai dirigenti. Questo è il titolo di prima pagina. Per la Stampa invece IRAP, lo sconto raddoppia, Renzi vuol portare da 2 a 4, 5 miliardi gli sgravi sui contributi delle aziende. Il Giornale invece insiste, il secondo giorno consecutivo, ecco come sarà il condono fiscale. Ieri il Giornale titolava proprio così: ci sarà il condono fiscale. Genova poi, per Repubblica, la rivolta di Genova, via il sindaco, e Renzi dice: vi aiuteremo. Mentre il Messaggero: Genova, la rabbia e la beffa, e anche il Secolo XIX alluvione, il piano fantasma. Voglio partire proprio da qui nel leggere gli articoli, tanti dedicati ancora alla vicenda di Genova, all'alluvione. Oggi non c'è giornale che non abbia l'intervista al sindaco Andrea Doria. Marco Doria, ovviamente, che è sceso in piazza a fronteggiare la rabbia presumibile dei cittadini. Vedete filmati ovunque le accuse: pagliacci, buffoni, andatevene, spala con noi, prendi una vanga. Oggi Marco Doria fa appunto una serie di interviste. Interessante il profilo di Marco Imarisio a pagina 3 del Corriere della Sera. Il personaggio dice: il giorno lungo del sindaco aristocratico, mi chiedo spesso chi me lo fa fare. Così Marco Doria. Ci stava la rabbia della gente, in qualche modo è giusto così, rappresento le istituzioni che quasi mai si dimostrano all'altezza del compito a loro assegnato. Dire che siamo vicini alla gente non basta, dice il sindaco di Genova. È difficile essere davvero vicini alle persone quando le risposte che puoi dare alle loro esigenze sono sempre solo parziali. A volte mi chiedo che senso abbia un ruolo come questo quando gli strumenti a disposizione sono così inadeguati. Doria che dice: sono comunista dagli anni 50 e 60, faccio outing, alle ultime elezioni ho votato SEL, che ancora esisteva. Chi me lo fa fare? Mi chiedo spesso a cosa serva un impegno personale diretto come il mio. Il mio ruolo non è quello di mettermi lì a spalare, come mi chiedevano alcuni ieri. Sarebbe facile, sarei un demagogo. I cittadini hanno ogni diritto a urlare contro questo sistema. Io invece non posso farlo perché rappresento le istituzioni anche quando non funzionano. È troppo facile stare fuori e dentro al tempo stesso. È un Doria che dice: C'è una retorica ambientalista dell'emergenza che detesto. Quando sento dire che basterebbe tenere i rivi puliti per evitare le tragedie, mi ven voglia di urlare. Il Bisagno porta 1000 metri cubi di acqua al secondo e li vogliamo fermare togliendo gli arbusti? Queste sono balle. La verità è che servono grandi opere di ingegneria idraulica. Sono soldi necessari a salvare vite umane. Lo Stato deve trovarli. A proposito però di opere, detto che Doria appunto fa interviste ovunque sul Fatto Quotidiano, intervistato da Ferruccio Sansa, mi contestano ma io almeno ci metto la faccia, sulla Stampa intervistato da Teodoro Chiarelli e la sua amarezza, gli insulti me li aspettavo. A proposito però di opere, ce n'è una molto contestata, è quella per la quale si è detto forse la causa dell'alluvione e della tragedia è questa. Lodovico Poletto racconta la storia di Orlando Pascucci. Orlando Pascucci, padre padrone della Pamoter, l'uomo che una parte di Genova indica come colui che ha stoppato le opere di allargamento del Bisagno tombato da Brignole in giù. 68 anni, marchigiano d'origine, una vita a pestare cantieri della Liguria. Lui dice: ho fatto i ricorsi al TAR, è vero, ma sono legittimi, ho difeso il mio lavoro. Noi avevamo pronti i soldi per le opere, 30 milioni dallo Stato, 5 dalla Regione, ma poi ci sono state polemiche, ricorsi, contro ricorsi, al TAR, il Consiglio di Stato, Pascucci che finisce nel mirino e lui dice: io ho fatto sempre tutto alla luce del sole. Mi dissero che avevo dato 10 telefoni ai funzionari del provveditorato delle opere pubbliche della Liguria per chissà quali interessi personali, ma l'ho fatto, sì, nulla di male, era nel capitolato, tutto assolutamente atti ufficiali. Ancora oggi mi dicono colpa mia, ma io ho solo difeso il mio lavoro, e quello che ho fatto io l'hanno fatto altri 6 imprenditori, gli esclusi per intenderci. Insomma, signor Pascucci, lei come si sente a essere additato come responsabile per questa alluvione a Genova? Non mi sento proprio responsabile di un bel nulla. Così alla Stampa, colui che ha fatto ricorso e ha fatto bloccare appunto i lavori sul Bisagno. In realtà il Secolo XIX racconta che sono più profonde le mancanze. Sentite qui cosa raccontano Marco Grasso e Matteo Indice a pagina 4. Il titolo è Sicurezza al piano che non c'è. L'unico protocollo vigente nel 2009 del sindaco di allora Marta Vincenzi, ritenuto peraltro generico, è l'unico documento del piano di emergenza specifico per le zone a rischio che il comune di Genova non si è mai dato, nonostante il comune fosse obbligato a farlo. Non esiste dunque un piano per la sicurezza. L'unico protocollo del 99 è considerato del 2009, scusate, è considerato un protocollo assolutamente non preciso. I piani di emergenza antialluvione, scrive il Secolo, sono tutt'altro che grigi incartamenti burocratici. Molto semplicemente sono l'unica cosa che può salvare la vita in un centro violentato da 70 anni di cemento. Eppure non ci sono questi premi. Ci sono altri premi invece. L'abbiamo sentito nel giornale radio anche. Incredibile a dirsi, ma è vero. Come raccontano Repubblica, Il Giornale, Il Messaggero, lo leggo da Repubblica, il premio Beffa ai dirigenti. Grazie a loro città più sicura. Dal comune sono arrivati i premi produttività per la maggiore sicurezza del comune di Genova ai dirigenti che si occupano nel comune di sicurezza e protezione civile. È abbastanza incredibile, ma racconta tutto l'ex senatore e candidato sindaco Enrico Musso, che scopre che Laura Petacchi, a cui viene chiesta la messa in sicurezza del territorio, ha ottenuto, dopo la certificazione del risultato ottenuto, 17.614 euro per un lordo annuo di 123.000 euro. Stefano Pinasco, investito di seguire i lavori dello scolmatore del Bisagno fermi da mesi, porta a casa 9.405 euro, che alza lo stipendio a 109.000 euro. Enrico Vincenzi, come obiettivo al monitoraggio del territorio e il drenaggio urbano, tutto ok, passa all'incasso 6.131 euro. E poi c'è lei, Monica Bocchiardo. A lei viene chiesta la mitigazione del rischio per gli edifici ubicati nelle aree di maggior rischio idrogeologico, tutti travolti dal fango, come peggio di 3 anni fa, ma per il comune il lavoro è fatto a puntino. Obiettivo centrato, 7.171 euro su quasi 94.000 di premio. Uno legge queste cose e dice, vabbè. Ma il premio, prima della pubblicità, mani sul volante per l'articolo che ci fa più incazzare in questa giornata, va al Corriere della Sera, Luigi Offeddu, che ci racconta, già dal titolo emblematico, potete capire che dovete tenere ben le mani strette sul volante senza prenderlo a pugni, i doppi stipendi degli eurodeputati, 1 su 2 a incarichi esterni. Ci sono eurodeputati che candidamente, tanto la legge lo prevede, arrivano a svolgere 68 attività. Alcuni di questi, non per forza italiani, in un anno 398 eurodeputati su un totale di 751 portano a casa fino a 18 milioni di euro oltre i loro salari da parlamentari, soldi guadagnati con attività esterne, consulenze, poltrone in aziende pubbliche, enti privati, incarichi di ogni genere. C'è per esempio l'italiano Nicola Caputo, PD, che sul mio onore, in piena coscienza del regolamento del Parlamento, dichiara altri 16 impegni o incarichi professionali: consigliere dell'Automobile Club di Caserta, presidente del consorzio Caserta Felix, socio della Caputo 189, socio Vigne del Sud e così via. Ne dichiara uno come retribuito di queste attività, consigliere regionale alla regione Campania e eurodeputato e tante altre cose. Avanti, amici miei, ridete dei vostri problemi. Alessandro Milan, il sindaco dell'informazione. E a lei, il sindaco, prima abbiamo avuto ospite Antonio Di Pietro che si candida a sindaco di Milano tra 2 anni. Non è uno scherzo, è effettivamente così, vuole candidarsi a sindaco di Milano. Comunque, qui siamo in ballo con la legge di stabilità, come sapete. Questa settimana, entro il 15, va presentata all'Europa, entro dopodomani. Oggi il Corriere della Sera ha qualche anticipazione, ovviamente tutto è da sistemare nelle prossime 48 ore, una manovra da 23 miliardi, spunta il taglio per il 3% degli stipendi dei dirigenti della pubblica amministrazione. Il governo, racconta Mario Sensini a pagina 6 del Corriere, sarebbe intenzionato a creare una piccola riserva di bilancio nella prossima legge di stabilità da utilizzare, se necessario, per la correzione del deficit pubblico del 2015. È una sorta di clausola di salvaguardia del valore di un paio di miliardi che scatterebbe se anche alla luce delle valutazioni di Commissione e Consiglio europeo si rendesse indispensabile un aggiustamento strutturale nei conti pubblici maggiore di quello oggi previsto dal governo, pari ad appena lo 0,1% del PIL. Spunta, tra l'altro, con questi 23 miliardi che raggiungerebbe la manovra come cifra, appunto il taglio del 3% agli stipendi dei dirigenti nella pubblica amministrazione. Per il resto si dovrebbe recuperare 5 miliardi dalla revisione della spesa per gli acquisti della pubblica amministrazione con riferimento ai prezzi standard della Consip. 1,5 miliardi dovrebbero contribuire come risparmio sugli acquisti e 1,5 miliardi sulla sanità, dunque 3 miliardi in totale le regioni, mentre i comuni con 1,5 miliardi dovrebbero contribuire. Le province un taglio da 500 milioni. A proposito di comuni, è interessante il lavoro che oggi Federico Fubini e Roberto Mania fanno su Repubblica. Sono 2 pagine. Ci sono cifre impietose per i comuni, soprattutto per le tasse e le multe non incassate, che tra l'altro dice la Corte dei Conti non incasseranno mai. Pensate che solo a Roma ci sono 600 milioni di euro di multe mai riscosse. si chiamano residui attivi, cioè i comuni li mettono in attivo nel bilancio perché sono soldi che dovrebbero riscuotere, ma tanto non li riscuoteranno mai, non perché non vogliono, a parte non vogliono, oppure non riescono, non possono. Sta di fatto che quindi sono un falso attivo. Tasse e multe non incassate mancano all'appello 70 miliardi. Questa è la cifra che dice Repubblica. 70 miliardi di euro. Per i comuni sono 33 miliardi, per le province 7 miliardi. Per le regioni e le province autonome il valore resta indeterminato, ma è sicuramente superiore a 29,8 miliardi. Il totale dunque arriva a 70 miliardi di euro. Nella più cauta delle ipotesi sono i cosiddetti residui attivi, nome burocratico per il più ingombrante degli scheletri nell'armadio della contabilità dello Stato. C'è un buco potenziale nei conti pubblici ben superiore ai 7 miliardi di euro. Insomma, i bilanci degli enti locali sono il pozzo dei desideri, si racconta in queste due pagine, comune per comune, Roma, Napoli, ma anche Milano, come la situazione dei residui attivi poi rischi di far crollare i bilanci dei comuni, questi 70 miliardi in attivi. Oh, comunque, cari ascoltatori, avete in casa un De Chirico, un Guttuso, un Giotto, un Caravaggio, un Fontana, non lo so, avete in casa un quadro, avete in casa qualcosa che ha veramente del valore e avete dei debiti nei confronti dello Stato? Sappiate che il ministro Franceschini ha detto c'è una norma del 1982, per la verità, e che non è mai stata usata, non è mai stata usata abbastanza. Il titolo è questo: pagate le tasse con le opere d'arte. Date allo Stato un'opera d'arte. Lo Stato ovviamente si sincererà che non gli state rifilando una crosta. E con questo estinguete il vostro debito con lo Stato. Niente soldi per le tasse, dai un quadro allo Stato. Anche questo è il titolo del Secolo XIX, oppure anche La Stampa: lo Stato accetta opere d'arte per saldare i debiti fiscali. Come racconta anche in prima pagina del giornale Vittorio Feltri promuove questa scelta del ministro Franceschini. Finalmente pagare l'IRPEF con un Picasso. Ho sempre pensato che Dario Franceschini fosse un buon ministro dei beni culturali. Egli occupa il mio posto. E questo è Vittorio, non Vittorio Fette, Vittorio Sgarbi. E lo fa non come un improvvisato spaesato, né come un tecnico. È un uomo sensibile, appassionato, di famiglia colta, curioso di letteratura e fine scrittore. E Vittorio Sgarbi dice: è giusto pagare le tasse coi quadri. L'unica cosa, ovviamente, caro Stato, attento ai furbi. Porte aperte ai collezionisti, il suggerimento è solo questo: non farsi infinocchiare dall'arte contemporanea e dalle sue quotazioni sopravvalutate, come dimostrano anche i soldi buttati per le acquisizioni di opere per l'allora costituendo Maxi. Mi limiterei alle opere che hanno più di 50 anni, tenendo ferma la data di morte dell'ultimo e più grande pittore italiano del Novecento, Giorgio Morandi, cioè il 1964. Fino a quel momento i valori possono essere certificati. Quindi, dice Vittorio Sgarbi, bella idea, ovviamente occhio caro Stato se hai in arrivo delle croste. Tu hai delle croste in casa, caro Mauro Meazza? Buongiorno. Buongiorno. No, solo cose di nessun valore proprio. Ah, ottimo. Questo spiace dover dare una delusione. Buongiorno Alessandro. No, tra l'altro, a proposito di casa, leggevo sul Sole 24 Ore appunto che c'è questo eccesso quasi di tassazione, quindi c'è questo fenomeno particolare di scoperchiare i capannoni per, se non sono più produttivi ovviamente, per evitare di pagare le imposte. Lo sto leggendo su Risparmio e Famiglia, sulle nostre pagine, dove oggi parliamo di mutui, parliamo anche di tasse, soprattutto di mutui degli atipici, cioè i giovani, specialmente i precari, insomma, che hanno difficoltà a ottenere dei finanziamenti, e che cosa, quali garanzie gli vengono chieste dalle banche, quali sono le offerte. Questo, caro Alessandro, però voglio dirti, tu che sei così attento alle province, sì, guarda che ci siamo quasi, perché sì, dal 1 gennaio 2015 sì, deve scattare la nuova organizzazione delle province. Ti raccontano tutto oggi Valeria Uva e Antonello Cherchi sul Sole 24 Sì, ho letto infatti della dote da 9 miliardi per le ex province. Ma allora ci sono sempre le province? Ma sì, ci sono, però sono un po' diverse. Vabbè, insomma, leggi il Sole 24 Ore, Alessandro, abbi pazienza. E voglio anche dirti che dal 1 gennaio 2015 arriva la DSU, che è l'ISEE però, che cioè il ricometro, hai capito? Sì. No. Vabbè, sì, insomma, non importa. Leggi Valentina Melis, ti spiega che ci sarà questo nuovo sistema di certificazione, forse perché i comuni non ce la faranno probabilmente a certificare il tutto, quindi sarà una scadenza che magari dovremo mettere nelle nostre settimane decisive. Per il resto, hai visto che abbiamo fatto le pagine molto ottimiste sulla condizione giovanile, oggi l'ottimismo è chiaramente è ironico, purtroppo è amaramente ironico, viene da dire, anzi sarcastico. E quindi tutto ciò premesso, che ti posso dire, Alessandro? Il campionato non c'è. Non c'è, ma c'è una partita? Ma sì, c'è l'Italia, ma insomma, cose minori con Malta. No, come minori, la nazionale. Vabbè, ma dai, Malta, Italia, su, cioè, Forza Italia, va bene, viva, sì, però. Viva, non Forza Italia, è come me, vedi che mi ha incasinato. Cioè, Forza Azzurra, Forza Azzurra. Allora, traffico. Oh, Milan! Sì, il numero uno, ciao. Ciao anche a te, caro ascoltatore. Allora, ieri è finita la kermesse al Circo Massimo del Movimento 5 Stelle. Ovviamente i giornali raccontano tutti quelle che sono le battute, le frasi di Beppe Grillo. Grillo, per esempio, titola il Corriere a pagina 11: il Parlamento poi lo chiudiamo. Raccoglieremo le firme per fare il referendum e uscire dall'euro, a quel punto avremo la maggioranza, chiuderemo il Parlamento e andremo a governare. Chiudere il Parlamento, così inizia l'articolo di Alessandro Trocino. Beppe Grillo conclude da 3 giorni del Circo Massimo con una frase delle sue, tra la minaccia e la boutade, l'indirizzo programmatico e l'iperbole. Del resto, dopo il suo appello all'esercito a fermare i cialtroni e quello di Gianroberto Casaleggio, che spiegava come solo con le armi la BCE può sottrarci la sovranità nazionale, l'armamento e l'armamentario è completo, ma Grillo rassicura subito: siamo gandiani. Vabbè, chiaramente i giornali rappresentano anche una realtà che sicuramente a molti del Movimento 5 Stelle non piacerà come viene rappresentata. Anche Annalisa Cuzzocrea su Repubblica: la festa si chiude con Di Maio e Di Battista che a favore di telecamere raccolgono a mani nude i rifiuti del Circo Massimo, li stringe quasi a soffocarli, una adorante che chiede baci, scatta selfie e dà buffetti sulle guance. Bello di mamma, dice una signora al vicepresidente della Camera. Lui sorride rilassato. Siamo così tanti, ha detto Grillo, che mi è venuta un'idea. Potremmo andare a fare i testimoni da Napolitano. Una bella marcetta. Ma sì, poi Dia ci aggiunge: scherzo, siamo gandiani, ma non siamo coglioni. Grillo ora marcia su Genova, tra l'altro l'annuncio domani saranno a spalare fango da Genova. Cacciamo la peste rossa, poi chiudiamo il Parlamento. Questo è il titolo della Repubblica sulla kermesse. Vabbè, parliamo d'altro, ci sono tante notizie di cronaca. La prima che mi incuriosisce è questa sul Corriere della Sera: è una sentenza a Milano che rivoluziona molto dal punto di vista delle pratiche di cosiddetta mala sanità. Luigi Ferrarella lo racconta. E attenzione, è importante, perché le pratiche di presunta malasanità, le cause sono tantissime, sempre di più in Italia. Sentite cosa scrive il Corriere. Rivoluzione in corsia. Sarà il paziente ora a dover provare l'errore del medico. Nelle cause civili di malasanità ricade sul paziente l'onere di provare la colpa del medico. E per agire in giudizio ci sono non più 10 anni di tempo, ma solo 5. Con una sentenza che cambia un ventennio di giurisprudenza italiana, il Tribunale di Milano ha rivoluzionato il sistema della responsabilità civile da malpractice medica a seguito della legge Balduzzi del 2012, alleggerendo i rischi gravanti su centinaia di migliaia di medici ospedalieri, determinando importanti novità per i pazienti in causa. La prima importante novità è proprio questa: sarà ora il paziente a dover, ribaltando l'onere della prova, a dover dimostrare e provare la colpa del medico. Comunque tutti i dettagli li trovate sul Corriere della Sera a pagina 23. A proposito invece di situazione medica, beh, Ebola fa sempre paura, raccontano i giornali. Ebola curò il paziente zero contagiata un'infermiera negli Stati Uniti. Il paziente zero morto in Texas è un nuovo caso accertato a Dallas, anche altri sono a rischio. E oggi il ministro alla salute Beatrice Lorenzin viene intervistata da Marco Lillo dal Fatto Quotidiano a pagina 6. Dice: tracciamo chi arriva dai paesi a rischio. Questo è quello che propone Beatrice Lorenzin. Per curare 20.000 casi ci saranno tanti operatori impegnati nei paesi ad alto rischio, cioè Liberia, Guinea, Sierra Leone. Parliamo di eroi, dice Beatrice Lorenzin. Io ho parlato con alcuni di loro, mi ha raccontato che non si danno neanche la mano per mesi proprio per evitare pericoli. E poi dice, riguardo all'Italia, c'è il problema dei voli. Dove si triangola? Dopo essere atterrati in Europa dall'Africa occidentale con un volo diretto, l'operatore o anche chi viaggia per altri motivi potrebbe spostarsi con altri voli senza che nessuno sappia la provenienza originaria, anche verso l'Italia. E d'altronde, nella scorsa settimana abbiamo parlato con una volontaria di una Onlus che veniva dal Congo e dice: sono arrivata a Parigi con il mio compagno, poi siamo venuti in Italia e in questa triangolazione non c'è stato nessun controllo nei nostri confronti. Ora il ministro Lorenzin dice: bisogna aumentare questo tipo di controlli triangolati di persone che arrivano magari dall'Africa in Italia senza passare, senza arrivare direttamente, passando e facendo perdere le proprie tracce magari da Bruxelles o da Parigi. Comunque, altre notizie che mi hanno incuriosito, beh, c'è questa: è un vero e proprio elogio per un personaggio straordinario che è Alex Zanardi, che ha compiuto l'ennesima impresa. Paolo Mastrolilli racconta la sua impresa sulla Stampa in prima pagina. L'impresa vera è educare l'Italia ai disabili. Zanardi, l'uomo che ci insegna il coraggio, ha fatto una straordinaria impresa alle Hawaii. Dopo quasi 4 km di nuoto, 180 di bici, 42 di maratona, percorsi in totale in 9 ore e 47 minuti, Alessandro Zanardi ha una voce forte come se avesse fatto un giretto ai giardinetti e dice dalle Hawaii: mi si scalda il cuore a pensare che qualche disabile, vedendo quel che ho fatto io, domani deciderà di uscire di casa e cambiare vita. Il pilota che perse le gambe in un incidente ha chiuso il primo triathlon nella sua vita in meno di 10 ore. Gli ultimi 300 metri, racconta, con la gente che faceva il tifo per me, sono valsi tutto lo sforzo e quando ho tagliato il traguardo sono stato molto vicino a piangere. È un giorno che custodirò come un tesoro per tutta la vita. Lo faccio perché spero che uno domani, anche solo uno, dica: se lo fa Alex Zanardi, lo posso fare anch'io. E racconta Paolo Mastrolilli in prima pagina della Stampa questa gara massacrante, insomma il triathlon è una delle gare più incredibili, pensate, 4 km di nuoto, 180 di bicicletta a mano, la sua bici che porta avanti con le mani, e 42 km di maratona, il tutto in meno di 10 ore. C'è invece, riguardo al ciclismo, riguarda un'altra vicenda, quella di Marco Pantani, un nuovo giallo. Il Corriere della Sera lo rilancia. Sapete che i familiari di Pantani hanno sempre avuto dubbi sulla sua morte. Oggi il Corriere della Sera racconta così: Pantani, altro giallo, un fax, cambia l'ora della morte. Marco Bonarrigo ne scrive a pagina 25 del Corriere. C'è anche il mistero dell'orologio del pirata, come era soprannominato, che si è fermato alle pochi minuti prima delle 17, eppure la morte viene datata alle 12. Insomma, qualche o errore o differenze o sospetti che ci sia davvero un giallo mai risolto dietro la morte di Marco Pantani. 14 febbraio 2004. Ma siamo al momento conclusivo, al momento della carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Vince il Corriere della Sera, che con tanto di foto con Renato Benedetto racconta il dramma a Villa Gernetto, una delle sedi di Berlusconi, dove doveva nascere l'Università Liberale Corsi, Lectio Magistralis di Chirac, Blair e Bush, così diceva Berlusconi nel 2008, ma tutto vuoto. Non c'è un corso, non c'è niente. Ma chi se ne frega!